Ieri, nella sua arringa difensiva conclusiva, l'avvocato difensore di Cavallini ha sostenuto che sostanzialmente in questo processo non è emerso di nuovo, nulla di nuovo, e per questo sostanzialmente chiedeva un'assoluzione. Ecco, questa è l'occasione per girare a te questa domanda. In questo processo sono emerse cose nuove che possono portare poi a possibili sviluppi? Si può dire che questo processo è partito andando a rivalutare elementi che effettivamente erano già nella disponibilità degli inquirenti. C'è stata una rilettura del ruolo di Cavallini, che sostanzialmente era uno dei leader dei NAR, tanto che un sinonimo del nome del gruppo era gruppo Fioravanti Cavallini. Nel corso del dibattimento sono venute fuori invece delle cose nuove. Se vuoi sono anche abbastanza di dettaglio, però danno uno squarcio ulteriore di quello che era il mondo che poteva probabilmente gravitare intorno ai NAR. Per esempio la carrozzeria di Milano in cui viene ricoverata l'auto di Cavallini quando ormai è già latitante, per cui dopo la strage alla stazione di Bologna, attraverso una serie di legami di parentela, era la proprietà di questa carrozzeria era riconducibile a personaggi legati al noto servizio o anello, cioè un servizio segreto occulto, non istituzionalizzato, che nel secondo dopoguerra ha sostanzialmente da un lato servito alcune correnti della Democrazia Cristiana, iniziare dalla corrente primavera di Andreotti, e dall'altro si è occupato degli affari più sporchi di cui neanche i servizi segreti cosiddetti deviati potevano occuparsi, uno per tutti la fuga di Carter. E sono venute fuori anche elementi che ricollegano determinati passaggi logistici dei NAR, mi riferisco ad alcune basi a Milano, in stretta vicinanza geografica sempre con sedi di apparati di intelligence. Nell'agenda Cavallini sono stati trovati dei numeri di telefono che si sosteneva fossero stati alterati da algoritmi mentali. La decifrazione di questi numeri, anzi la lettura dell'agenda e l'associazione di questi numeri di telefono riconduce ancora una volta ad apparati, e questo sono elementi che forniscono elementi ulteriori al mondo che gravitava intorno al terrorismo neofascista. Ti faccio un'ultima domanda a proposito dei vari testimoni che tu prima hai citato, cioè gli ex NAR, Mambro, Fioravanti, Ciavardini, eccetera. Il loro atteggiamento comunque si mantiene quello di non pentimento, mi pare di capire. Assolutamente. Loro continuano a dire quello che hanno sempre detto, cioè a riconoscere altri reati, molti altri reati di cui si sono macchiati: l'omicidio di Mario Amato, omicidi di poliziotti, di estremisti di sinistra, assalti a radio di sinistra. Per la bomba di Bologna continuano a proclamare la propria innocenza, e continuano a farlo peraltro in un modo molto aggressivo. Cioè, quando ognuna di queste persone si è presentata a Bologna davanti alla corte d'assise, ha avuto parole sicuramente non di rispetto nei confronti delle vittime. Si sono definiti, qui mi riferisco in particolare a Francesca Mambro, dei deportati a Bologna che ancora dopo 40 anni devono rispondere di reati per cui hanno già risposto. In quel caso i tre NAR già condannati venivano sentiti come testimoni assistiti, ovviamente non come imputati. Insomma, c'è stata una certa aggressività che non si ritrova nelle parole di questa mattina di Cavallini, in cui appunto invece di prendersela con le vittime se la prende più che altro con la stampa, cosa che ha fatto anche l'avvocato Pellegrini ieri in udienza. Nei giorni scorsi è stato il 40° anniversario dell'omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della regione siciliana assassinato il 6 gennaio del 1980, e per quell'omicidio come esecutori materiali vennero imputati e processati Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, e alla fine vennero assolti definitivamente. Insomma, la cosiddetta pista nera o il connubio tra neofascismo e mafia per il delitto Mattarella è tornato spesso sulla stampa, ed è tornato inevitabilmente più spesso in questo periodo. Si sono aggiunti ulteriori pezzi di racconto. Ecco, ieri è stato annunciato che chiunque associerà il nome di Cavallini al delitto Mattarella ne risponderà sia in sede penale che in sede civile. Per cui c'è questa prosecuzione di un atteggiamento ostile nei confronti, in questo caso, della stampa. È stato deviato l'obiettivo della loro aggressività.